insegnare il Buddha Dhamma in Italia. E anche grazie a Sandra e Gautam. Dov'è Gautam? Gautam. Ecco, dov'è? Ecco. E Massimo? Massimo. Ecco. Sì, per traduire per me, perché il mio italiano è abbastanza buono per chiedere un caffè latte. E basta, eh? E anche, devo dire che dopo una vittoria proprio fortunata di Italia contro Inghilterra, non mi sento parlare italiano per un po' di tempo. Do I have to translate that? ma non sono attaccato. They are two English speakers, man. Ah, yes. Do I need to translate that in English for you? No. This evening, I shall do my usual opening to a retreat. Quindi questa sera farò la mia usuale apertura, il discorso di apertura ad un ritiro. I start with a little ceremony. Quindi inizieremo con una piccola cerimonia. Just to get us into the atmosphere of a retreat. Questo serve un po' a entrare nell'atmosfera del ritiro. And then a standing meditation. Poi faremo una meditazione in piedi. Which hopefully reminds us and for some of you teach you how to establish the basic state in order to practice meditation. E questo speriamo che serva a alcuni di voi a imparare, ad altri a ricordare quali sono, diciamo, qual è lo stato di base che è necessario per cominciare a meditare. And then a guided meditation. In Vipassana. Poi ci sarà una meditazione guidata di Vipassana. In the tradition of the Mahasi Sayadaw of Burma. E questa meditazione guidata di Vipassana sarà secondo la tradizione di Mahasi Sayadaw, un maestro birmano. And then a small practice of metta, which means developing a good heart. Poi faremo una breve pratica di metta, che significa sviluppare un buon cuore. And then we can go to bed. E poi possiamo andare a letto. So, have you got the handout? Oh, yes. Ah, I left it outside. You got one for me? Puoi usarlo con lui? Can you share? Grazie. So, this is the puja. Allora, questo che vi ho dato è il puja. So, bowing is a way of expressing our willingness to follow the Buddha's teaching. Quindi l'inchinarci è un modo per noi di impegnarci a seguire gli insegnamenti del Buddha. An attitude of surrender. Quindi è proprio un atteggiamento di resa, è un arrendersi. And All religions have some way of expressing that way of giving yourself to the teachings. Tutte le religioni hanno un modo in cui uno si dà agli insegnamenti. Although people bow for other reasons too. Sono persone che si inchinano anche per altri motivi. Yeah, out of praise, out of gratitude. Ci si inchina come forma di lode o di gratitudine. And we are then honoring the teacher. Dopodiché onoreremo l'insegnante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. È quello della seconda parte, l'omaggio. So the Buddha for this weekend or week is our teacher, our guide, our exemplar. E quindi il Buddha in questo weekend, in questa settimana, sarà il nostro maestro, la nostra guida, il nostro esempio. Because all we are doing is following the path that he himself took. Perché quello che stiamo facendo è seguire il sentiero che lui stesso ha preso. Buddhang saranam gacchami, so we're taking refuge in the Buddha. Poi prenderemo il rifugio nel Buddha. So this traditionally is the historical personage. Quindi tradizionalmente questo si riferisce al personaggio storico. But spiritually speaking, it's the Buddha within us. Ma parlando in senso spirituale, prendiamo rifugio nel Buddha che è dentro di noi. It is this Buddha that needs to be liberated. Perché è questo il Buddha che deve essere liberato. The Dhamma, Dhammang Saranang Gacchami, the Dhamma is the teaching, the practice which allows, which is the way in which we liberate ourselves. Il secondo è il rifugio nel Dhamma, Dhamma sono gli insegnamenti, e questo corrisponde al modo in cui noi troveremo la nostra liberazione, ci libereremo. And Sangham Saranang Gacchami, this is the traditionally the community of those people who have had some insight into Nibbana. Poi c'è il terzo rifugio nel Sangha, e tradizionalmente questo si riferisce a quelle persone che hanno avuto un qualche assaggio, diciamo un insight, un'intuizione nel Nibbana. So they are witnesses to the Buddha's own teachings. Quindi come se fossero testimoni rispetto agli insegnamenti del Buddha. But it can also be understood in a much wider sense. Si può intendere in un senso più ampio. And that is that we, just for this week or weekend, are creating a community which is specific to seeking the liberation. E quindi noi possiamo intenderlo come il fatto che noi in questo weekend, in questa settimana, costituiamo una comunità e intenzionalmente noi stiamo cercando questa liberazione. And it's much easier to do this when you know other people are suffering rather than just by yourself. Questo è più facile quando si sa che ci sono anche altre persone che stanno soffrendo oltre a te stesso. You've got the five precepts. Yes, because I left them outside, but they have the eight. Oh, they have the eight. They have the eight. Okay. Yeah. So then, these eight precepts, these eight rules of training. Poi ci sono gli otto precetti, in altre parole, le otto regole di addestramento. So the first five are just regular for a harmless society. Quindi i cinque sono quelli standard, diciamo, quelli che garantiscono una società innocua, cioè che non fa del male. So yes, just for this time we're not going to kill each other, steal from each other, anything like that. Quindi per questo tempo in cui siamo qui in ritiro non ci uccideremo, non ruberemo le cose l'uno dall'altro e via, di seguito. After the retreat, anything goes. Dopo il ritiro poi potete fare qualsiasi cosa. The third one is a strengthening of an old word, chastity. Il terzo precetto è un rafforzamento di un'antica parola, che è la castità. Yeah, this is something nobody wants to hear these days. Questa è una cosa che al giorno d'oggi nessuno vuole sentire. But for this period of time, we put aside all erotic and romantic desires. Ma per questo periodo, qui in ritiro, metteremo da parte qualunque tipo di desiderio erotico o romantico. Romantico, sì. Even though they may attack us, we do not indulge. Anche se ci attaccheranno questi desideri, questi pensieri, noi non cederemo. Because we need all the energy we can muster in order to practice our vipassana. Perché abbiamo bisogno di tutta l'energia possibile per poter fare la nostra vipassana. The other rules are more to do with a training. Le altre regole hanno più a che vedere con un addestramento. What's the first one? It's the food? I forget, can I borrow? Yes. You don't have it there? No, oh, this is the five precepts. Oh, that's the five? You've got five precepts, Queen. Oh. Have a look. Cinque. I thought I'd check them. This is the eight. Yes. Ah, the eight, eh? Sorry. Scusate, ne avete cinque o otto? Otto. Otto. I got them mixed up then. They That's must right. have the Has wrong Has everybody got eight? Yeah. They can listen Maybe to it anyway. Fuori, Jenny, le devo aver appoggiati dove they can listen. So, the questo impegno a non mangiare più di necessario, eh? So, this is... taking the rule not to have any solids after midday. Poi c'è appunto il sesto precetto, che è quello di non assumere cibo solido dopo mezzogiorno. And so we don't eat until breakfast tomorrow morning. E quindi non mangeremo più fino a colazione di domani mattina. This strikes terror in many people. Questo in molte persone crea un po' di terrore. I can assure you, you do not die. Ma vi posso assicurare che non morirete. It's an opportunity to feel what if in the evening you feel a little hungry. Quindi questa è solo un'opportunità, cioè se al mattino vi sentite un po' avete un po' di fame. So here you can begin to connect with the 1 billion people in the world who are malnourished or hungry. Qui è un'occasione per connettervi in qualche modo con il milione di persone al mondo che soffrono la fame. Is that billion or million? Miliardo. Billion? Yeah. Miliardo. Sì, it's a billion people who are not eating well. Yeah. Quindi ci sono 1 miliardo di persone che non hanno la possibilità di mangiare. And when we suffer a little bit with other people suffering, this creates the act of compassion. E quando soffriamo un po' insieme a queste altre persone che soffrono, questo spontaneamente fa nascere un atto di compassione. Sì. But it's also a process of renunciation. Ma è anche un processo di rinuncia. And I don't want to scare you. Ma non vi voglio spaventare. But the whole of the spiritual life is renunciation. Ma gran parte della vita spirituale ha a che vedere con questo spirito di rinuncia. But remember that in Buddhist understanding, renunciation does not mean that we don't enjoy life. Ma ricordatevi che secondo il pensiero del Buddha, la rinuncia non significa che non ci godiamo la vita. The renouncing is to do with attachment. Perché la rinuncia ha a che vedere con l'attaccamento. And this hopefully will become clear to you as the retreat goes on. E questo spero che vi diventerà sempre più chiaro man mano che procediamo con il ritiro. Non dormire più del necessario. Usually when people come on a retreat they have some imbalance in their sleep. Quindi quello successivo ci prendiamo l'impegno a non dormire più del necessario, questo perché quando si arriva a un ritiro spesso le persone hanno una sorta di squilibrio nel loro, nelle loro abitudini di sonno. Well, either they're not sleeping well or they're sleeping too much. O non dormono bene o dormono troppo. And so it takes 2 or 3 days for this to begin to even out. E quindi ci vogliono 2 o 3 giorni prima che questo un pochino si stabilizzi. So the tiredness over the next 2 or 3 days is maybe real tiredness. Quindi la stanchezza che probabilmente proverete nei primi 2 o 3 giorni forse è una stanchezza reale. So you will hear me say tomorrow if you need a long siesta. Maybe you need a long siesta. Quindi domani mi sentirete dire, beh, se vi serve una siesta, un riposino pomeridiano più lungo, beh, forse ne avete proprio bisogno. But after 3 days, all feelings of tiredness and fatigue are to be understood as sloth and torpor. Ma dopo i primi 3 giorni, se vi capita di sentirvi stanchi, assonnati, questi dovrebbero poi essere interpretati come pigrizia e torpore. And this must be resisted. E questa è una cosa a cui bisogna resistere. That is, so long as you're sleeping well. E questo purché, ovviamente, dormiate bene. So, for the next 2 nights, we have a full 7 hours sleep. Quindi per le prossime 2 notti avremo delle notti di 7 ore di sonno. And then we cut back a little bit. E poi le riduciamo un po'. So getting up at 4 o'clock strikes terror in some hearts. Anche il fatto di alzarsi alle 4 potrebbe in alcuni cuori, diciamo, avere un effetto di terrore. But nothing happens. Ma non succede nulla. And for those of you who are new to the practice, don't feel that you have to push yourself. Per coloro di voi che sono nuovi alla pratica, beh, non sentite che dovete spingere troppo. you can always take some time out, you can go for a walk or something. Potete sempre prendervi del tempo, potete andare a fare una passeggiata, per esempio. But we should but you ought to tell me that you want to do. Agli otto, quelli che ne avevano. But you need to tell me that you want to do that. Ecco, però se decidete di andare a fare una camminata, dovete dirmelo. Not to indulge in non indulgere i divertimenti. Our main task is to bring the mind to silence. Poi c'è quello successivo, non indulgere ai divertimenti, e questo perché il nostro principale compito è quello di portare la mente in uno stato di silenzio. We want to be able to investigate this psychophysical organism. Che vogliamo essere in grado di investigare questo organismo psicofisico. So we want to be still enough to let this psychophysical organism express itself. Quindi dobbiamo essere abbastanza fermi per fare sì che questo organismo psicofisico possa esprimersi. So we have to stop putting things into the mind. E quindi dobbiamo smettere di continuare a mettere delle cose dentro la mente. Non indulge al abbigliamento estetico. Beautifying oneself. Don't indulge in. What's that? Beautifying. Oh, yes. Yes. We don't. In order to become fully liberated. Yeah. Quindi per poter essere pienamente liberati. We don't have to be beautiful. Non è necessario essere belli. Isn't that a release? Non è un sollievo questo. Eh? We don't have to smell nice. Non dobbiamo neanche avere un buon profumo. Eh? Avere uno, sì, un odore piacevole, yeah, diciamo. This is a liberty. Questa è una gran libertà. And finally, to respect, to have a genuine commitment to silence. E infine, l'ultimo di queste regole è un rispettare, ma effettivamente impegnarsi a rispettare il nobile silenzio. Silence here means not just talking. E qui il silenzio non è solo il parlare. It means not looking at people. Significa anche non guardare le persone. Because when you look at somebody, you beckon a response. Quando guardi qualcuno è come se tu ti aspettassi una risposta. This may disturb the other person's silence. E questo potrebbe disturbare il silenzio dell'altra persona. So we have to become, as it were, like little islands unto ourselves. È come diventare delle piccole isole a noi stessi. The Vipassana Gatha, versi di Vipassana, these are the three investigations. Poi ci sono i versi di Vipassana e queste sono le tre cosiddette investigazioni, le tre ricerche. We are trying to discover something which is not impermanent. Stiamo cercando di scoprire qualcosa che non è impermanente. And to do that we have to be very clear as to what is impermanent. E per fare ciò ci deve essere molto chiaro che cosa è impermanente. We want to find out why or how we create suffering for ourselves. Dobbiamo scoprire perché e come creiamo sofferenza noi stessi. Because in Buddhist understanding, nobody can cause us psychological pain. Perché secondo il pensiero buddista non c'è nessuno che ci può creare la sofferenza psicologica. It's difficult to understand. È una cosa difficile da capire. And then to understand that the sense of self is also not permanent or substantial. E poi anche cercare di capire che questo senso del sé non è sostanziale, non è permanente. Every night we are happy to lose it. Ogni notte siamo felici di perderlo. And then in the morning, there you are again. E al mattino rieccoci di nuovo lì. And then finally some verses from the Buddha's teachings. E poi ci sono dei versi presi dagli insegnamenti del Buddha. And his last encouragement to us. E poi c'è il suo ultimo incoraggiamento a noi, le ultime parole del Buddha. So feel free to join in as you wish. Quindi reciteremo questo questi omaggi, precetti, eccetera, e sentitevi liberi di unirvi alla recitazione se lo desiderate. Lo avete tutto, tutti questo più o meno giusto adesso, con le otto regole? Just in case you're concerned. Solo se nel caso voi foste un po' preoccupati. This doesn't make you a Buddhist. Non è che recitare questo vi rende automaticamente buddhisti. Buddhang pujami, Dhammang pujami, Sangham pujami, Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.